Benvenuti a tutti gli ascoltatori. Sono Inopportuno e oggi abbiamo con noi Antonia, esperta di tecnologia e analista del mercato tech asiatico. Bentornata Antonia. Grazie mille per l'invito. Sono felice di essere qui oggi per parlare di un tema molto interessante e, direi, abbastanza controverso. Infatti, oggi parliamo di una notizia che ha fatto molto scalpore nel mondo tech: DeepSeek, una startup cinese, sostiene di aver creato un chatbot che compete con ChatGPT spendendo solo l'1% dei costi. Sembra quasi troppo bello per essere vero, no? Esattamente, inopportuno. E come spesso accade nel mondo della tecnologia, quando qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Mi incuriosisce questa tua affermazione. Cosa hai scoperto nelle tue ricerche? Vedi, la storia di DeepSeek è come un iceberg. Quello che vediamo in superficie, questa incredibile efficienza nei costi, è solo la punta. Sotto si nasconde una realtà molto più complessa e, per certi versi, preoccupante. Interessante questa metafora dell'iceberg. Puoi spiegarci meglio cosa si nasconde sotto la superficie? DeepSeek afferma di utilizzare solo 32 annotatori esperti per il proprio modello. Ma la realtà è che la Cina ha creato interi hub di annotazione dati, sovvenzionati dal governo, nelle città di terzo livello, dove il costo del lavoro è notevolmente più basso. Aspetta, facciamo un passo indietro per i nostri ascoltatori. Cosa significa esattamente l'annotazione dati e perché è così importante per l'AI? L'annotazione dati è fondamentale per l'AI. In pratica, sono persone che etichettano manualmente enormi quantità di dati per insegnare all'intelligenza artificiale. Immagina di dover categorizzare milioni di immagini, testi o conversazioni, indicando esattamente cosa contengono o cosa significano. Quindi stai dicendo che dietro questa intelligenza artificiale c'è in realtà molto lavoro umano? Esattamente. E questo è un punto cruciale. Secondo i dati dei ricercatori di Oxford, ci sono circa 163 milioni di lavoratori delle piattaforme digitali registrati globalmente. Molti di questi sono coinvolti nell'annotazione dati, spesso in condizioni lavorative precarie. È un numero impressionante. Ma torniamo a DeepSeek, come si collega questa realtà alle loro affermazioni sui costi ridotti? La questione è proprio questa. DeepSeek parla di 32 annotatori esperti, ma non menziona l'enorme rete di lavoratori nelle città cinesi minori che forniscono il vero lavoro di base. È simile a quanto emerso con ChatGPT e i suoi lavoratori africani sottopagati. Ah sì, ricordo quel caso. Ci furono delle rivelazioni sui lavoratori del Madagascar, vero? Precisamente. Nel caso del Madagascar, i lavoratori venivano pagati pochissimo per fingersi sistemi di sorveglianza algoritmica. E abbiamo visto situazioni simili con i moderatori keniani che controllano i filtri di Meta. È un pattern che si ripete. Mi colpisce come queste aziende tech tendano a nascondere il lavoro umano dietro le loro innovazioni. Perché pensi che lo facciano? È una questione di narrativa e marketing. L'idea di un'AI magica che fa tutto da sola vende meglio della realtà di migliaia di lavoratori sottopagati che etichettano dati per ore. Inoltre, ammettere questo lavoro umano potrebbe sollevare questioni etiche e richieste di migliori condizioni lavorative. E parlando di condizioni lavorative, come sono organizzati questi centri di annotazione dati in Cina? I centri di annotazione dati in Cina sono strategicamente posizionati nelle città di terzo livello, dove il costo della vita è significativamente più basso. Il governo ha creato delle vere e proprie fabbriche di dati, spesso mascherate come centri di innovazione tecnologica. Mi viene in mente un parallelo con le fabbriche di assemblaggio elettronico degli anni 90. È un parallelo molto appropriato. Come allora, anche oggi abbiamo una forza lavoro nascosta che sostiene l'industria tech. La differenza è che invece di assemblare componenti fisici, questi lavoratori assemblano i componenti cognitivi dell'AI. Questa è una prospettiva interessante. Ma quali sono le condizioni concrete di lavoro in questi centri? I lavoratori spesso affrontano turni lunghi, obiettivi di produttività estremamente elevati e stipendi bassi. Devono mantenere livelli di precisione altissimi nell'annotazione, perché gli errori possono compromettere l'intero sistema di AI. E immagino che questo stress costante abbia un impatto significativo. Assolutamente. Abbiamo documentazione di problemi di salute mentale, affaticamento visivo cronico e burnout. E la cosa più preoccupante è che questi lavoratori sono spesso legati da accordi di non divulgazione molto stringenti. Quindi non possono nemmeno parlare delle loro condizioni di lavoro? Esatto. È parte di quella che chiamo la cortina di silicio, un muro di segretezza che separa il marketing brillante dalla realtà quotidiana di chi rende possibile questa tecnologia. E come si inserisce tutto questo nella competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti? È una domanda cruciale. Questa corsa all'AI più economica e più potente sta creando una sorta di dumping sociale. Le aziende cinesi possono offrire costi più bassi proprio grazie a questo sistema di lavoro nascosto. Mi chiedo quali potrebbero essere le implicazioni a lungo termine di questo modello. Le implicazioni a lungo termine sono preoccupanti. Stiamo creando un precedente pericoloso dove il progresso tecnologico si basa sullo sfruttamento sistematico di una forza lavoro invisibile. Mi viene da pensare che questo potrebbe influenzare anche il modo in cui sviluppiamo l'AI in futuro. Precisamente. Come dice un vecchio detto italiano, il pesce puzza dalla testa. Se costruiamo sistemi di AI su fondamenta eticamente discutibili, come possiamo aspettarci che questi sistemi prendano decisioni etiche in futuro? È un punto molto valido. Ma esistono alternative? Come possiamo sviluppare l'AI in modo più etico? Ci sono diverse strade possibili. Prima di tutto, serve maggiore trasparenza. Le aziende dovrebbero essere obbligate a dichiarare non solo i loro risultati tecnologici, ma anche le condizioni di lavoro di chi contribuisce a questi risultati. Un po' come le etichette dei prodotti che indicano la provenienza e le condizioni di produzione. Esattamente. Potremmo introdurre una sorta di etichetta etica per l'AI. Inoltre, dovremmo investire in tecnologie che riducono la necessità di annotazione manuale, ma senza usare questo come scusa per nascondere il lavoro umano che comunque resta necessario. E nel frattempo, cosa possono fare i consumatori e gli utilizzatori di queste tecnologie? Possono fare domande, pretendere trasparenza. Quando un'azienda afferma di aver creato un'AI rivoluzionaria a costi bassissimi, dovremmo tutti chiederci, a quale costo umano? Mi sembra che stiamo parlando di un cambiamento culturale oltre che tecnologico. Assolutamente. Dobbiamo superare questa narrativa dell'AI come magia tecnologica e riconoscere che dietro ogni avanzamento ci sono persone reali. Solo così potremo sviluppare un'industria tech veramente sostenibile ed etica. Prima di concludere, vorrei chiederti una cosa. Sei ottimista sul futuro di questo settore? Sono cautamente ottimista. Vedo sempre più discussioni su questi temi, più consapevolezza. Ma il cambiamento richiederà pressione costante da parte di tutti. Consumatori, regolatori, media e la stessa industria tech. Grazie Antonia per questa analisi così approfondita. Credo che oggi abbiamo dato ai nostri ascoltatori molto su cui riflettere.